Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend che chiude gli appuntamenti di questa settimana e come di consueto si apre con la copertina che oggi è dedicata all'emergenza dei malati non Covid. In linea con noi il dottor Stefano Fagiuoli, che è direttore del Dipartimento di Medicina dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Dottore, l'emergenza Covid ha generato una nuova e altrettanto grave emergenza che riguarda i pazienti che proprio a causa del Covid non sono stati curati, sono rimasti come sospesi. Le malattie di cui soffrivano o i rischi a cui erano esposti sono stati silenziati, come congelati in attesa della ripresa. Ma adesso, dottor Fagiuoli, si fanno i conti e la situazione è tale per cui possiamo dire che non c'è più tempo da perdere. Ma certamente è vero che le strutture che si sono trovate ad affrontare l'emergenza Covid-19 hanno dovuto gioco forza stravolgere i loro modelli organizzativi per predisporre un'adeguata accoglienza di pazienti che erano profondamente diversi dai nostri flussi abituali. Il numero era elevatissimo, tutti molto simili con gravissime insufficienze respiratorie, necessità di ossigeno e spesso di età avanzata. E per dare un'idea, noi siamo arrivati quasi ad allocare 600 posti letto per i Covid a fronte di una capacità reale in quel periodo di circa 780. E siamo passati dagli abituali 60 posti di unità intensiva a oltre 100 dedicati solo ai Covid più un altro po' di letti non Covid. E questo in un paio di settimane. Sono state sospese il 70-80% di attività chirurgiche e ambulatoriali e sono rimaste attive l'attività oncologica, le emergenze, più ovviamente i parti, ce ne sono stati più di 1000 in questo periodo. E evidentemente con questo tipo di riorganizzazione noi abbiamo oltre 16.000 prestazioni ambulatoriali cancellate e posticipate e molti pazienti hanno visto dilazionati i loro controlli. In questo periodo quello che abbiamo fatto è stato di contattare o telefonicamente o per mail, in alcuni fortunati casi con della improvvisata telemedicina, i pazienti più complessi e quelli con malattia più urgente o più grave, cercando di creare per loro dei percorsi personalizzati a seconda della gravità. E è chiaro che tutto ciò ha comportato inevitabilmente che una quota di pazienti con delle condizioni di cronicità, ma compensata, magari labilmente compensata, abbiano visto a causa di questo differimento nel tempo della loro valutazione degli episodi di aggravamento o di scompenso della loro patologia di base, fosse cardiologica, pneumologica, epatologica o di qualunque tipo. E noi adesso dobbiamo farci carico di queste nuove complessità. L'ospedale si è attrezzato come tutti gli ospedali creando dei percorsi affidabili per separare i pazienti infetti o potenzialmente tali, e sono pochissimi oramai. Quindi l'ospedale, dottore, non ci deve più fare paura? L'ospedale non deve far paura perché gli accessi oggi sono protetti. Sicuri. E i pazienti che vengono chiamati a controllo e in questa fase sono quelli che hanno più bisogno delle cure immediate possono essere visti in assoluta sicurezza. Per gli altri meno urgenti ci stiamo affidando anche alla telemedicina. E però una cosa importante da dire è che questo percorso di recupero di tutte le prestazioni, che certamente noi vogliamo e desideriamo fare, non potrà che essere graduale per ovvi motivi. Le persone che si occuperanno di questo sono le stesse che sono state sotto pressione durante lo tsunami Covid, quindi per fare questo abbiamo davvero bisogno di una grande collaborazione e comprensione da parte di tutti i pazienti. E per essere molto pratici, i pazienti che abitualmente facevano controlli semestrali o soprattutto annuali non devono essere presi assolutamente dal panico, perché questa dilazione di 3 mesi avrà impatti decisamente molto bassi o se non nulli nelle loro condizioni. Invece per quei pazienti il cui protocollo prevedeva controlli ravvicinati tre mesi o addirittura meno, molti li stiamo già ricontattando e li abbiamo già sentiti. Ma certamente per tutti gli altri il confronto telefonico o mail con il centro specialistico e soprattutto con il medico di base di riferimento potrà consentire una programmazione adeguata, per cui diciamo che tenderemo a non rispettare la scadenza cronologica dei precedenti appuntamenti e ripetendola pedissequamente, certo. Ma cercheremo di far passare avanti chi ne ha più bisogno. Dottor Fagioli, lei che è uno dei medici che ha lavorato in prima linea durante tutta l'emergenza, ha conosciuto la violenza del Covid che nella Bergamasca si è abbattuto come uno tsunami. Quali segnali di questa fase 2 le fanno pensare che il peggio sia passato e la invitano quindi ad essere cautamente ottimista, e quali invece la preoccupano? In altre parole, secondo lei il virus ci sta lasciando o sta giocando un po' a rimpiattino per poi presentarsi in autunno? Il più forte segnale di ottimismo mi viene dall'aver preso atto della straordinaria capacità dimostrata dalla popolazione italiana nell'ottemperare le misure di lockdown, che se ne dica è stato fatto bene, diffusamente e assolutamente con metodo, e questa è una cosa importantissima. E un altro segnale di ottimismo è la grande crescita in termini di curva di apprendimento delle gestioni tecniche e organizzative da parte degli operatori sanitari e delle strutture sanitarie. Mi fa pensare che il sistema ha imparato molto. Mi duole dire che i segnali di pessimismo vengono dall'eccesso di esternazioni scientifiche di noi operatori, troppo spesso in contrapposizioni magari solo di facciata, ma soprattutto troppo spesso diffuse con un linguaggio che alla fine è adeguato solo per operatori esperti, ma espone a mali interpretazioni da parte di quello che è il vero fruitore finale, cioè la popolazione generale laica. Capire e praticare la comunicazione come parte del processo di cura del Covid, ma in generale in medicina, certamente sarebbe un viatico migliore. Detto ciò, io non sono competente, ma come penso nessuno, per dire se ci sarà o meno con certezza una seconda onda. Ma proprio perché abbiamo imparato la prudenza e l'attenzione, io mi comporterei come se potesse accadere, mantenendo un adeguato livello di prudenza e di sicurezza, con la speranza nel cuore che questo non succeda. Non ho le certezze granitiche di chi sa già cosa succederà. Grazie dottor Fagioli per essere stato buona con noi. Buona te, giornata, ciao. Grazie. Ormai la conoscete, sì, è arrivato il momento, come ogni sabato, del nostro allenamento con il team di psicologi del centro di Engage Minds Hub, il centro di ricerca della Cattolica. In linea con noi abbiamo la professoressa Gwendalina Graffigna, ordinario di psicologia e all'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore del centro di ricerca. Professoressa Graffigna, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ormai, prof, non c'è sabato senza di lei, e poi l'allenamento continua anche sulle pagine Facebook di Obiettivo Salute. Qual è la sfida di oggi? La sfida di oggi è di nutrire la nostra mente, perché siamo sempre più affaticati, stanchi, e vuoi che sia il lavoro agile, vuoi che sia l'incertezza di questo periodo, le settimane in cui siamo stati chiusi per il lockdown, insomma, il sentirsi inariditi e stremati penso che sia una sensazione abbastanza comune. E allora dobbiamo farci un regalo, dobbiamo alimentarci psicologicamente. E come possiamo farlo? Ma basta dedicarci 10 minuti, però dobbiamo farlo, mettiamoci l'orologio e la sveglia. 10 minuti di cultura, 10 minuti di bellezza, 10 minuti di arte, 10 minuti di qualche cosa che ci permetta di distrarci dalla sofferenza e dalla fatica di queste giornate, e che vada ad alimentarci psicologicamente, ad arricchirci e a nutrirci. Questo è l'esercizio che vi propongo, lo faccio anch'io, penso che ne abbiamo veramente tanto bisogno. Professoressa Graffigna, grazie per essere stato con noi per guidare i nostri allenamenti. Trovate tutto sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, compreso il video della professoressa Graffigna, che speriamo venga a trovarci presto per un video in cui ripasseremo tutti i passaggi del nostro allenamento, perché come succede in palestra i circuiti si possono ripetere. Certamente. Ma voilà, allora. Grazie professoressa. Grazie, noi facciamo una pausa, ritorniamo subito dopo. A tra poco. Obiettivo Salute Weekend. Torneranno i cinema all'aperto e i dischi dell'estate, le celebri banane di Andy Warhol tornerà, Lupin farà un colpo eccezionale per noi. A proposito d'estate, come sarà l'estate dei nostri figli? Di che cosa hanno bisogno dopo mesi di lockdown e reclusione? E soprattutto come possiamo aiutarli a fare di necessità virtù in quest'estate di cui non conosciamo il copione? Un copione che dobbiamo scrivere ogni giorno, giorno dopo giorno. Oggi ne parliamo insieme a tanti ospiti, ognuno ci aiuterà a comporre un puzzle di idee, di immagini che ci aiuteranno a capire come sostenere la crescita dei nostri figli. E parlando di figli, non potevo fare a meno di avere qua accanto a me, anche se virtualmente, Alberto Pellai, medico, scrittore, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Alberto, ciao. Ciao Nicoletta. Grazie. In linea con noi abbiamo anche il Don Stefano Guidi. Don, benvenuto. Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno, grazie. E si aggiunge per questo trio Alice Bigli, che è presidente del Festival Mare di Libri. Alice, grazie. Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti. Alberto, comincio da te. Come sarà l'estate degli adolescenti? Di cosa c'è bisogno in quest'anno dove le nostre vite sono le stesse di prima, ma con una serie di regole e attenzione che le renderanno molto differente, totalmente differente? Ma i ragazzi hanno comunque bisogno di amicizia, di aria aperta, di attività in cui siano protagonisti, attivi, e dopo il tempo del lockdown dove sono stati reclusi e obbedienti, effettivamente in questa stagione c'è bisogno che si cambi il copione. E quali sono, Alberto, i bisogni dei ragazzi che sono risultati più compromessi, anche rimasti insoddisfatti nei tempi del lockdown? Ma direi intanto i bisogni proprio del corpo. L'adolescenza è un'età in cui il corpo deve essere fortemente attivo e sono stati deprivati anche delle loro attività sportive. Inoltre hanno bisogno di fare cose con gli altri, sfida davvero complessa perché abbiamo il tema del distanziamento fisico, ma bisognerà trovare un modo per permettere che loro siano aggregati, animati, e soprattutto poi hanno bisogno di protagonismo, cioè devono sentire di poter mettere in gioco le loro competenze in modo responsabile, in modo utile e chiaramente anche in modo divertente. Questo è sicuro, Alberto. Don Stefano, vengo a lei come referente della Federazione Oratori Milanesi. Tutte le estate gli oratori propongono un'estate piena di vita, di esperienze e anche di responsabilità ai nostri adolescenti. A migliaia coinvolti anche nell'animazione dei Grest estivi. Quest'anno, Don, cosa succederà ai Grest? Che cosa faranno gli adolescenti? Quest'anno i Grest saranno, diciamo, stravolti dalle indicazioni, da normative che sono importanti perché ci permettono davvero di riprendere una vita sociale, tra virgolette, in sicurezza. Sì. Però per i nostri adolescenti ci sarà comunque l'occasione, l'opportunità di ritornare per esempio ad abitare, a frequentare lo spazio dell'oratorio e, come diceva il professor Pellai, vivere un'esperienza di protagonismo e di responsabilità. Ecco, direi che uno dei capisaldi dell'oratorio è proprio il volontariato, il protagonismo da parte degli adolescenti. Ecco, questa cosa, questa esperienza si potrà ancora realizzare, siamo contenti di questo perché anche con modalità differenti i nostri adolescenti potranno ritornare in oratorio come animatori per aiutare i più piccoli a giocare, a stare insieme. Madon, lei che li vede giornalmente, in che cosa l'hanno colpita gli adolescenti durante il tempo del lockdown? E ora che il lockdown è stato superato, come li vede? Ma allora, quello che mi piace riportare è quello che ho raccolto dall'esperienza diretta e dai racconti di tanti educatori, di tanti preti che in queste settimane non hanno mai cessato di accompagnare gli adolescenti. Una grande capacità di interiorità, una grande serietà delle domande e dall'altra parte un grande desiderio di condividere le domande. Ecco, questo è un tempo che ha seminato nella vita dei nostri adolescenti delle domande fondamentali. Ecco, gli adolescenti hanno desiderio di poterle condividere e di poter rielaborare con qualcuno l'esperienza così sofferta e particolare che ancora in parte stiamo vivendo. Alberto, è stata una grande prova di maturità che mi sembra che gli adolescenti abbiano superato brillantemente. Sì, è proprio così. Gli adolescenti ci hanno veramente fatto vedere un po' di che tempra sono fatti, e mi piace molto anche questa sottolineatura di un tempo dove, costretti a rimanere, no, in una zona di reclusione, hanno anche molto lavorato sulla loro dimensione profonda, sulla loro interiorità. Credo che questo ci farà vedere i suoi frutti poi nei mesi a venire. Decisamente un tempo fertile se è stato usato in questo modo. Don Stefano, mi scusi, ma molti genitori sono preoccupati per il rischio di contagio. Quali attenzioni ci saranno nelle vostre attività estive per garantire che i vostri ambienti, le vostre attività non siano potenziale fonte di rischio? Come vi siete organizzati? Beh, ci siamo organizzati secondo le indicazioni, quindi eviteremo assolutamente ogni forma di assembramento. Organizzeremo l'attività ricreativa ed educativa costituendo dei gruppi piccoli, quindi che garantiscono la maggiore capacità di tenere anche il distanziamento fisico tra una persona e l'altra, e anche il controllo sul corretto utilizzo delle mascherine e dei dispositivi di protezione in generale, quindi il lavaggio delle mani, la pulizia degli ambienti. Quindi davvero io mi sento di dire che ci sono tutte le condizioni perché possiamo vivere nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, un'attività estiva negli oratori sicuramente cambiata, ma sicura, in cui i ragazzi torneranno e continueranno a essere protagonisti. Come vi ho detto in apertura, con noi c'è anche Alice Bigli, che è presidente del Festival Mare di Libri. Ho invitato Alice perché questo è l'unico festival di letteratura per l'adolescenza presente in Italia, che è tutto gestito e condotto dai nostri ragazzi. Da anni si svolge a Rimini e quest'anno invece Alice si svolge nel web, ma i ragazzi sono centrali, restano centrali, sono loro i protagonisti. È così, Alice? Sì, è così, è così. Diciamo che come tantissimi eventi ci siamo trovati nella condizione di non poter realizzare l'evento come l'avevamo sempre fatto, un evento culturale, sì, come l'avevamo sempre pensato e organizzato. Abbiamo pensato appunto a una modalità digitale, scelta anche qui fatta dalla maggior parte degli eventi, ma avevamo la necessità di preservare quella che era la nostra tipicità, che è proprio il fatto che il nostro è un festival fatto interamente dai ragazzi, per i ragazzi, e quindi diciamo ci siamo posti delle domande su come questo fosse possibile, ma in realtà è stato possibile assolutamente mantenere questa nostra caratteristica. Quindi Mare di Libri per quest'anno sarà un evento interamente digitale, però è stato completamente organizzato dai ragazzi e garantisce un'interazione diretta tra i ragazzi e gli ospiti. Ma Alice, come li avete stimolati a tenere alto l'impegno e anche l'entusiasmo, pur non potendosi incontrare dal vivo? Perché insomma, anche questo aspetto poteva in qualche modo spegnere l'entusiasmo. Invece no, ce l'avete fatta. No, io devo dire la verità, ce l'hanno fatta loro. A convincere noi, nel senso che eravamo molto più spaventati noi adulti. I ragazzi, bisogna considerare che al Festival Mare di Libri lavorano tutto l'anno, quindi loro avevano iniziato a lavorare a settembre sulla scelta del programma, sui vari progetti. Avevamo gruppi che stavano anche esterni, insomma i ragazzi di Rimini che stavano lavorando per prepararsi a intervistare autori, gruppi che stavano realizzando i book trailer del nostro concorso book trailer, avevamo i giurati del premio Mare di Libri che avevano già letto buona parte dei libri che dovevano valutare, quindi loro erano molto avanti nel loro lavoro, nel loro impegno quando è arrivata questa emergenza, e erano piuttosto loro che dicevano: non possiamo cancellare tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora e non vogliamo fare un anno senza Mare di Libri. Quindi diciamo è stato più mettersi al servizio di quello che loro avevano già fatto e cercare di capire come poterlo valorizzare comunque, come poter realizzare comunque qualcosa, e ovviamente di mettersi un po' in gioco perché bisognava rimparare tutto. Fammi capire, Alice, come possiamo noi ascoltatori seguire le vostre attività di quest'anno? basta seguire Mare di Libri su Facebook o su YouTube e sarà possibile vedere tutto in diretta. Invece quello che si vedrà dall'esterno è un'interazione che abbiamo riprodotta all'interno di una stanza Zoom che ha più o meno le dimensioni di quella che è una stanza normalmente di un evento a Mare di Libri, una sala, quindi avremo in base agli eventi da 100 a 150 ragazzi che si riuniscono in una sala virtuale di Zoom che poi vengono appunto proiettati all'esterno attraverso i canali social. Alberto, dai ragazzi si può imparare, dobbiamo imparare. Che cosa ci portiamo a casa? E come possiamo renderli, aiutarli a restare protagonisti? Perché ne hanno bisogno per crescere. Ma credo che Mare di Libri sia un ottimo esempio di come renderli protagonisti e stimolare il loro entusiasmo li faccia poi essere assolutamente attivi, molto operativi e anche molto competenti. Certo hanno bisogno che gli adulti sappiano mettere a disposizione occasioni di aggregazioni, stimoli che siano alla loro portata, alla loro altezza proprio, e soprattutto esperienze che li rendano protagonisti e che facciano alzare lo sguardo in un tempo in cui lo hanno tenuto troppo spesso incollato allo schermo e quindi troppo basso. Ringrazio Alberto Pellai, Don Stefano Guidi e Alice Bigli per essere stati con noi, Roberta Frisani in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Vi do appuntamento domani a mezzogiorno per la bufala in tavola. Vi aspetto, che mangiamo insieme. Buona giornata, buon sabato da Nicoletta.